È giovedì 3 aprile 2014 e la 166esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Se impariamo ad amare gli animali come meritano, saremo molto vicini a Dio. È questa la lezione di Madre Teresa di Calcutta, che Berlusconi ha recentemente scoperto e che prontamente sta cercando di trasformare in proposta elettorale. Il leader del centrodestra italiano chiede che i club Forza Silvio si mettano subito in moto per trovare dei genitori adottivi ai 150.000 cani abbandonati nei canili. Canili che, tra l'altro, sottolinea il leader di Forza Italia, costano alla collettività 260 milioni di euro all'anno. Come reagiranno elettoralmente gli amanti degli animali si vedrà. Intanto l'Associazione Italiana Difesa degli Animali ed Ambiente, la IDA, che si era offerta di ospitare l'ex cavaliere nel caso in cui il 10 aprile venga affidato ai servizi sociali, mette in guardia da strumentalizzazioni elettorali e rileva come quello dei cani abbandonati, al quale vanno aggiunti i 750.000 randagi, sia un problema che merita misure concrete. A meno che Berlusconi, aggiungono ironicamente, non venga da noi a fare il dog sitter. Si è concluso con un pestaggio domenica pomeriggio la permanenza del circo Millennium di Viviana Orfei a Pordenone. Un vero blitz punitivo da parte dei circensi, secondo il racconto degli attivisti di LAV e animalisti FVG, i quali, assieme a volontari indipendenti, avevano portato avanti un presidio durato 12 giorni. Sei uomini ci hanno aggrediti nel parcheggio mentre stavamo andando via, racconta Daniela Galeota, portavoce di animalisti FVG. Hanno estratto a forza alcuni di noi dalle automobili, trascinando fuori le ragazze per i capelli. Erano inarrestabili, malgrado l'intervento di polizia e agenti della Digos. A suon di calci e pugni, cinque attivisti sono finiti in ospedale con prognosi di diversi giorni. Non nega l'accaduto Derek Codaprin, giovane acrobata e direttore del Millennium. Ho partecipato anch'io, non mi nascondo, ma ero davvero incavolato. Le autorità di Pordenone non hanno interrotto lo spettacolo e il giorno seguente hanno permesso l'ultima replica. In ospedale, intanto, sono ricoverati i ragazzi con traumi cranici e lesioni di vario genere. Siamo esasperati, asserisce Derek Codaprin. In Italia ci saranno 100 presidi animalisti fuori dai circhi. Noi non siamo aguzzini, né ladri. Non vedo perché dobbiamo cambiare la nostra storia per piccoli gruppi di scalmanati. I nostri animali, noi ne abbiamo 40, sono nati in cattività, lavorano con noi e li trattiamo bene. Se poi mi si chiede se sono vegano, no, mangio pure la carne di cavallo. Ma la maggior parte della gente la pensa come me, tant'è vero che i nostri spettacoli sono sempre pieni. Dal canapo alla sbarra. È finito alla sbarra Scompiglio, nome d'arte del fantino campione Jonathan Bartoletti, che lo scorso 15 settembre ad Asti era in groppa al cavallo Mamutones, che morì dopo essere inciampato nel canapo proprio al momento della partenza del palio, spezzandosi l'osso del collo. Bartoletti è oggi indagato per maltrattamenti di animale. Secondo l'accusa, Mamutones era partito in anticipo a causa delle frustate del fantino, che, come ricorda Repubblica nelle pagine locali, è già stato squalificato per 10 anni dal palio. Scompiglio, vincitore per ben 2 volte del Palio di Asti, ha sempre sostenuto che si è trattato solo di un incidente. Italian Horse Protection ha denunciato la presenza di Jonathan Bartoletti lo scorso 9 marzo in gara al Palio Primaverile di Fucecchio, ribattezzato Corsa di Primavera. Anche in quell'occasione è morto un cavallo, il cui nome, infaustamente appropriato, era Ora Basta. A Milano una clinica veterinaria pubblica con spazi dedicati alla cura e alla degenza di animali domestici. L'amministrazione comunale di Milano ha individuato la sede della prima clinica veterinaria pubblica dedicata alla cura e alla degenza degli animali domestici. Aprirà in via Senigallia 60 nel quartiere di Bruzzano a Milano. La struttura, spiega Palazzo Marino, aprirà entro il 2014 e verrà gestita da associazioni senza scopo di lucro, a garanzia della vocazione sociale del progetto. Lo spazio dovrà essere aperto gratuitamente a quei cittadini milanesi che non sono in grado di far fronte alle spesso costose cure dei propri animali. Grazie agli indicatori ISEE, tutte le persone meno abbienti potranno usufruire di un prezioso servizio gratuito di alta qualità in una clinica attrezzata con macchinari all'avanguardia. Chiudiamo con una bellissima notizia che riguarda stavolta animali acquatici. La Corte dell'Aia ha dichiarato fuori legge la caccia alle balene. Un verdetto storico, un duro colpo per il Giappone, una festa per i capitani coraggiosi di Sea Shepherd. In Antartide, quindi, la caccia alle balene per motivi scientifici è dichiarata contraria alle norme e ai trattati internazionali. Lo stabilisce la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia, risolvendo il contenzioso sollevato nel 2010 dall'Australia, che aveva citato il Giappone in giudizio. Il verdetto boccia l'assurdo pretesto usato dagli stati balenieri, in primis il Giappone, che aggiravano la moratoria alla caccia approvata nel 1986. Ricercatori e cetologi internazionali hanno affermato che la caccia per motivi scientifici non ha nulla di scientifico. Negli ultimi 25 anni questa falsa copertura è costata la vita a più di 10.000 cetacei. Ci congratuliamo con la flotta di Sea Shepherd, con i suoi capitani coraggiosi, con i suoi volontari, ma anche con i suoi sostenitori e benefattori, per tutto il lavoro instancabile di interposizione, di azione diretta, di disturbo, di documentazione video fotografica e di pressione sui governi di tutto il mondo. Possiamo dire che questa vittoria è stata principalmente merito di Sea Shepherd. L'appuntamento con la trasmissione Restiamo Animali nella sua versione extra large è per domenica 6 aprile 2014 alle ore 12.